Adesso vediamo, Maurizio Francesco sei libero di stare fuori questo paraculo. Fai questo domanda, telefono. Fanculo. Adesso ti faccio scudare, aspetta, vabbè. Cosa credi che ho paura di te, Froscio? Mi ha già lo attaccherai, telefono, domani mi rivetto con tua madre. Vediamo se crepi tu o tua madre. Vedi che io lo so a memoria il tuo numero, però dovrei cambiare perché il numero tuo è 243364. Capito che ti squilla notte e giorno. E non lasci dormire nessuno, né a te né a tua madre. E domani all'una, alle due, alle tre. Ma tu fai, come hai fatto tu oggi a rompermi il coglione a me? Io le rompo a te, capito? Voglio vedere se tua madre ne è stata in erba. Falla, dico, quella grande bagassa, ma tua va.